Ma non fa, è una, ma guarda che mia moglie non è mia moglie, non è mia moglie, è una signora che ha una sua testa, una sua politica e una sua esistenza. La Zanzara. Il carrozzone va avanti da sé, con le regine, i suoi fanti. Ma quanti sono, Davide, i candidati alle primarie del PDL? Quanti sono? Chi è che conduce la Zanzara? La signora Amanda Lear? Esattamente. Mi dovete sorbire così tutta la sera. Con questa voce così. Eh? Amanda! La chiameremo Amanda stasera. Quanti sono i candidati alle primarie del PDL? Dunque, direttorissimo, se non ricordo male dovrebbero essere 10, però sono in continuo. Ah, forse 11 oggi, forse 11. Ma che ne so, è un carrozzone. Forse 11, perché si è ritirato la Mussolini ieri, quindi si era scesi a 10. Un carrozzone anche un po' traballante, direi, sì, no? Senza ruote, io direi un carrozzone senza ruote, ah. A cui Berlusconi ha tolto le ruote. Ecco, era un carrozzone dove sono saliti tutti sopra e Berlusconi la notte lo ha sbullonato tutto, quindi un carrozzone senza ruote. Tant'è che una delle candidate, la signora Santanchè, dice: credo e auspico che Berlusconi possa essere candidato, ma come? Sei tu che ti candidi. Io credo e auspico che Berlusconi possa ancora essere il nostro candidato premier, perché lo dico molto onestamente, è anche un fallimento nostro, della classe dirigente, se ancora oggi tutti i sondaggi dicono che il presidente... Vabbè, poi dice senza Berlusconi è peggio, ma sentiamo questo Samorì, il nostro amico Samorì. Cioccorì, vuoi dire? Secondo Crosetto, sì. Vinco le primarie e anche le elezioni. Io penso di poter vincere le primarie e penso di poter vincere anche le elezioni. Boom! Risposta di Nunzia De Girolamo, sempre PDL, eh? Sentite Nunzia De Girolamo, non sa controllare gli anziani? Come può governare il paese? Sulla vicenda dei pullman, onestamente, bisogna saper fare anche mia colpa, perché il nuovismo non è sempre un premio rispetto alla politica, perché si è fatto un errore. Se Samorì non ha saputo vigilare chi portava i pullman degli anziani, mi chiedo, potrà governare il paese? Tutti contro Samorì. Potrebbe governare una casa di riposo, forse, vista la non tocchiamo anziani. Questo argomento, no, è una battuta. Se no ci querelano. Ma chi? No, sappiamo pare che non sia stata colpa loro. Samorì è totalmente estraneo alla vicenda degli anziani portati a loro insaputa a un convegno politico. Samorì è completamente un anziano, completamente estraneo. Diego Volpe Pasini non c'entra nulla. Diego Volpe Pasini ha altre colpe, però ma non c'entra nulla. Però lì sono arrivati gli anziani, eh? No, io non dico niente. Sempre lì sono arrivati. Da soli, comunque, sono arrivati da soli. A proposito di carrozzone, che in realtà non è un carrozzone, perché fanno le primarie, lo organizzano molto bene, eccetera, eccetera. Sì, no, infatti. La signora Rosi Bindi. C'è anche un tiro a Renzi, negli ultimi giorni, Questa cosa di associarlo a Berlusconi, sempre è stantia, vabbè, ma non c'è bisogno, Renzi un berluschino, sentiamo, dai. Noi usciamo da un periodo nel quale gli italiani sono stati catturati dalla menzogna, dalle battute, dalle promesse che non si possono mantenere, dallo spirito dello sfascio e quant'altro. E tutto questo è avvenuto dentro una grande menzogna collettiva in cui c'è stato un grande orchestratore di tutto questo. Renzi è un berluschino. Beh, Renzi è figlio di questo periodo, non c'è dubbio. Accennavo prima al fatto che, lo dico mica sto esprimendo un fatto, una valutazione su una realtà, non sto dando un giudizio. Beh, come non sta dando un giudizio? Sta dicendo è figlio del berlusconismo, è figlio di questo periodo, insomma, una sorta di berluschino, le solite accuse ridicole. È nato in quel ventennio lì. Ma quando mai? Ma hai sentito la sapiente domanda di Pancani alla signora Bindi? Ma non era Pancani, era Giannini, imbecille. Ah sì? Sì. Sembrava Pancani. Ma quando mai? È Giannini, vice direttore di Repubblica. Ma è possibile che non leggi nulla? Ma sembrava Pancani. Durante la giornata, ma che diavolo fai? Oggi ho avuto molto da fare. Ma cosa fai? E oggi ho avuto molto da fare. Beppe Grillo, sono un delinquente e non posso fare il premier. Io non sono mai, ma mai mi è passato nella anticamera del cervello di poter di entrare in Parlamento. Lo sappiamo, lo dici sempre, primo, ma noi ti voteremo tutti. Primo, sono pieno di carichi pendenti, sono pieno di denunce, veramente, c'ho processi, non potrei neanche. Vabbè, sei coerente. No, io sono un delinquente, cioè, hai capito? Ma io non voglio fare il curatore fallimentare, scusa, io voglio fare il comico. Questa non è male, 11 candidati alle primarie del PDL così possono giocare con il Milan. Mi arriva da Twitter intanto Grillo, quelli al secondo mandato dei miei sono agitati, abbiamo 4 regole, rispettatele. Noi abbiamo 4 regole, o rispetti quello, e allora ci sono persone che sono arrivate al secondo mandato e sono agitate perché non hanno più carriera. Al secondo mandato hai finito, qui se sei eletto come consigliere finisci come consigliere, non è che molli lì e fai poi il segretario o fai il presidente di regione. Rispetti chi ti ha eletto, tu mi eleggi come sindaco, io faccio il sindaco e basta. Abbiamo 4 regole che sono quelle, che è un movimento, e se non ti vanno bene vai nel PD o vai nel PDL, nessuno ti trattiene, no? Ma scusa, ma che cosa c'è da contestare a questa roba qua? Spiegami, cosa c'è da contestare? Non c'è nulla da contestare a questa roba. Abbiamo 4 regole. Se non vuoi stare con noi, io non sono un simpatizzante del 5 Stelle, però sono queste le regole. Se vuoi, questo è così. Se non vuoi, a questo casa. Questo è un signore, un moderno fascistoide. C'è tempo, ma si moderno fascistoide. Spari cose senza che senso. Ci ha fatto credere che ci fosse la democrazia del web e poi si è messo con il signor Casaleggio a scrivere 4 regole da solo, in beata solitudine, facendoci credere che era la democrazia dal basso. Questa è la truffa. I poliziotti non manganellano i banchieri o i politici corrotti. Questo francamente non c'entra nulla, caro Grillo, sempre Grillo. Ai poliziotti ho scritto una cosa d'affetto, ho detto che io non ho mai visto un poliziotto manganellare un banchiere o manganellare un politico corrotto, vedo sempre guerra tra poveri, gente che guadagna 1200 euro al mese manganellare studenti, operai, pastori, agricoltori, pescatori, deve finire. Per scaramanzia, così la morte va via. Casino anche nell'Italia dei Valori, caro Parenzo. Deputati che se ne vanno, un tale che si chiama Porcino. Signor Porcino, bellissimo il nome. Signor Porcino. L'onorevole Porcino. Se ne va? Dove va? Ma che ne so, Donati fa un partito. Se ne va anche dal Senato Pedica. No, ma tu adesso, Pedica. Adesso ridi. E però se ne va anche Paladini dalla Camera. Tutti questi nomi che non capisco. Sì. Tu hai fatto un viaggio lunghissimo da Milano a Roma. Sì. C'era la fine. No, non era lunghissimo, 3 ore. No, ho avuto un po' di ritardo. C'era a Firenze, sono sceso, sì, un attimo, fammi una sigaretta. C'era la fila di 20 persone. Ho detto, ma lei è Parenzo della Zanzara? Dice, c'è anche Cruciani? Dico, no, Cruciani a Roma. Dice, ma mi spiega tutto su Porcino? Cioè, la gente che proprio mi assediava è intervenuta la Digos con i manganelli per dire andate via, no, vogliamo sapere di Porcino. La polizia a cavallo è intervenuta per disperdere la gente. Ma anche del nuovo partito di Donati hanno chiesto, no? No, cioè, ma lì c'è la gente con i cartelli proprio, che hanno bloccato i binari a Firenze con i cartelli dicendo Donati, cosa fai? Donati, cosa fai? Io la combatto da ore, punge e poi fugge da me e cerca il posto migliore. Beh, anche il giorno della Fornero, caro Parenzo, una Fornero... Questo l'ho letto. Una Fornero che scappa. Una Fornero che scappa, Ciusi. Non fa la... conferenza stampa insieme al ministro Balduzzi perché dice di essere perseguitata dalle Iene che vogliono chiederle di una storia che adesso non siamo qui a spiegare, una storia di lavoratori di un istituto che è governato dal Ministero del Lavoro, lavoratori cui non vengono pagati i contributi, che erano in realtà lavoravano come dipendenti, in realtà non erano dipendenti, le solite cose all'italiana, gestite male, pare, dal Ministro del Lavoro. Insomma, lei non vuole rispondere e scappa, dice di essere perseguitata. Dice anche ai giovani che sono in alcuni casi violenti, alcuni studenti sono violenti e immaturi, e su questo però secondo me ha ragione, perché gli hanno mandato delle mail. Vabbè, questo insomma c'è. Filippo? Sì, pronto. Ciao, ma che avete fatto? Perseguitate la Fornero, Filippo Roma delle Iene? Ma chi perseguita la Fornero? Noi semplicemente volevamo farle una domanda, altro che persecuzione. Cioè? Cioè, volevamo chiederle conto della condizione in cui hanno vissuto dei lavoratori dell'ISFOL, che è un ente controllato dal Ministero del Lavoro, per tanti anni, cioè gente che ha lavorato di fatto come dipendente, ma formalmente con contratti co-co-co, quindi precari. Però lei che c'entra? Non è mica lei che l'ha fatti lavorare così? No, com'è che c'entra? L'ente in cui hanno lavorato queste persone è un ente vigilato dal Ministero e soprattutto in questo momento è commissariato dal segretario generale del Ministero del Lavoro, nominato nel dicembre del 2011 dalla stessa Fornero. Quindi ha competenze dirette, dice signor Roma. Certo, cioè, nel senso. Ma voi siete stati un po' forse aggressivi, no? Con la signora Fornero. È quello che lei dice, adesso al di là del merito. No, scusate, io direi il contrario. Chi è stato aggressivo è stato l'entourage della signora Fornero, che neanche ci ha permesso di avvicinarci, perché questi ormai appena vengono arrivare le telecamere si bloccano fisicamente. Sono terrorizzati. Sono terrorizzati. Ora, la Fornero, detto fra noi, può rispondere o può non rispondere alla domanda che gli facciamo, ma che gli venga fatta questa domanda, non ce lo sono sempre ripetere. Questa è aggressività fisica, violenta. Noi facciamo il nostro mestiere, andiamo a sorpresa a fare domande ai politici. Vabbè, ma che t'hanno fatto i guardiaspalle della signora Fornero, il signor Roma? Anche lei fa un mestiere pericoloso, va lì, rompe i coglioni, dice rispondi, giustamente, rispondi. Ma in questo caso non è stato manco possibile. No, e i gorilla, cosa è successo, signor Roma? L'hanno allontanata subito i gorilla? I gorilla mi hanno subito messo le mani addosso e si sono frapposti rispetto alla Fornero, che magari, cioè, se avessero permesso di avvicinarmi alla Fornero, magari la Fornero mi avrebbe detto in faccia: guardi, non voglio rispondere su questo tema, e se sarebbe assunta le sue responsabilità, però avrebbe esercitato il suo diritto di non rispondere. Ma per tornare al tema dell'aggressività, appunto, alla luce di quello che sto dicendo, sono aggressivo io, noi delle Iene, o è aggressiva, diciamo, la Fornero col suo entourage? E adesso che fa? Adesso, sta inseguendo ancora la signora Fornero in questi, questi minuti in cui parla con noi? No, in questi minuti no. Possiamo dire ufficialmente che non inseguiamo la Fornero, quindi stia tranquillo, ministro, non la stiamo inseguendo se si ascolta la zanzara. Scusi un attimo Filippo, ma Roma, ma poi Filippo che ha fatto? È scappata, ho letto, sotto una specie di... Sì, perché poi a un certo punto, diciamo, un po' spaesata rispetto a questa situazione, di sua iniziativa è andata a ritroso verso l'uscita del Ministero, quando a un certo punto ha trovato davanti la sbarra d'ingresso, è sgattaiolata sotto ed è fuggita fuori, dove c'era l'auto blu che l'ha raccolta e si è dileguata. Beh, atletica però. La cosa che però vorrei specificare, che è fondamentale per capire la situazione, è che l'INPS ha chiesto all'ISFOL il pagamento dei contributi dovuti e mai versati relativi a questi lavoratori. Sì, vabbè, ma a noi del merito poi non ce ne frega niente. Dovrebbe interessarsi a pagarli questi contributi, insomma. Sì, vabbè, poi a noi del merito, in realtà, Filippo, come sai, non ce ne frega nulla, cioè, nel senso, voi fate il vostro mestiere, volevate chiedere alla Fornero conto di questi lavoratori che sarebbero stati discriminati, eccetera, eccetera, eccetera. Lei perché non vuole rispondere? No, dice che quella non è la sede adatta, perché in realtà c'è una conferenza stampa su altre questioni, sull'amianto, eccetera. Non è cronaca, dice. Cioè, se noi non vuoi rispondere, perché è una domanda scomoda ed è in difficoltà. Detto ciò, non è che si fanno gli incontri tematici, cioè se c'è una questione di interesse pubblico pertinente rispetto al Ministro del Lavoro e io incontro il Ministro del Lavoro, quella domanda gliela faccio. Non è che siccome c'è la conferenza sull'alluminio, non devi fare sull'amianto, sì, certo. No, è chiaro. Ma capito, voi siete riusciti ad avvicinarvi fino a un certo punto, perché la persecuzione di cui lei parla è la prima volta che inseguite la Fornero, oppure sono mesi che la inseguite come segugi? No, è la prima volta, era un inedito assoluto rispetto alle Iene, cioè da quando è ministro noi non eravamo mai andati a farle alcuna domanda, quindi per noi era un debutto, diciamo, rispetto alla Fornero. Quindi persecuzione di cosa? Sono lì a fare la domanda. Stop. Lei però, la signora Fornero, però, ha diramato una nota dal suo ministero in cui dice: di fronte alla prevaricazione della troupe televisiva e l'insistenza, noi diciamo, del signor Roma nel voler porre questioni che nulla avevano a che fare con i tempi previsti, il ministro ha dovuto lasciare l'auditorium. Non si può che stigmatizzare simili comportamenti che non hanno nulla a che fare col diritto di cronaca, caro signor Roma. Bacchettata del ministro Roma. Ma il ministro che è scappato di sua iniziativa si è dato a gambe. Però riconoscerai che è un gesto molto atletico per una signora come la Fornero, quella di abbassarsi sotto una sbarra. Questo bisogna riconoscerlo. Lì mi è piaciuta parecchio, perché l'ho vista agile. Ma le hai le immagini o no? Purtroppo no. Purtroppo no, perché la stavo inseguendo. Lei, insomma, il soggetto è stato repentino e inatteso. Quindi il io l'ho seguita, ma era così repentino, veloce, che non abbia fatto in tempo a immortalarla. Ecco, ma chi la paragoni? Cioè, come animale, no? In questa capacità di sgattaiolare. Sono la signora Fornero anche da certa età, mica da tutti, abbassarsi sulla sbarra. infatti quello mi è piaciuto, cioè mi ha molto colpito positivamente questo suo essere un po' gatta che prende sgattaio via. Vabbè, ma insomma, diciamo qualcosa alla signora Fornero. Continuerete su questa, a chiedere conto di questa vicenda dell'ISPOL, di questo istituto, di questi lavoratori, sì o no? Cioè, si deve essere preoccupata la signora Fornero? Non deve essere preoccupata, basta che si impegna, cioè quello che noi vogliamo per la fine risolvere il problema, non vogliamo stare lì a fare le sceneggiate qua a Fornero, vogliamo che il problema si risolva. Un po' vi piace la sceneggiata. La sorte di questi poveracci che sono qui alcuni 15 anni, che lavorano con gli obblighi di un dipendente senza avere i diritti. Quindi vorremmo sapere da Fornero se è in grado, se può risolvere questa questione pagando i contributi dovuti e magari assumendo a tempo indeterminato questi lavoratori. Tutto grazie qua. Grazie a Filippo Roma. Grazie a voi. Beh, grande performance, grande performance oggi di Scilipoti dalla Parodi, Senti, si paragona questa volta, ma l'aveva già fatto in realtà, a Saragat. A Saragat, il 14 dicembre e come l'11 gennaio del 47 con Saragat. Beda, il 14 dicembre è stato un giorno importantissimo, ma anche l'11 gennaio del 47 è stato un giorno importante quando Saragat spaccò il Partito Socialista e creò le condizioni affinché l'Italia non andasse verso la Russia e un partito comunista che poi abbiamo visto che stava creando le condizioni veramente del disastro italiano. E tutti a ridere, hai sentito? E come mai? Come mai secondo te lo studio è scoppiato in una fragorosa risata? Come mai gli hanno riso in faccia e tutti? Infatti, senti cosa dice dei 5 giornalisti stranieri. Cosa che lei ha detto sulla moneta, sulla mi differenza dispiace che lei sconosce completamente mi dispiace la storia che lei, di mi dispiace paese che lei non sappia la differenza e l'economia non capisce completamente niente. Mi dispiace veramente rammaricato di avere giornalisti come lei in Italia che sono servi del potere delle banche e cercano a tutti i costi di delegittimare coloro i quali cercano di tutelare gli interessi dei lavoratori, gli interessi degli italiani e delle imprese che sono vessati dai suoi amici. Ma dice sempre le stesse cose Scilipoti. La cosa divertente i giornalisti che serbi delle banche, i giornalisti stranieri lo chiamano i poteri forti. Onorevole, ce lo prendono sul serio, questo è divertente. Beh, cari ascoltatori della Zanzara, alle 19:17 innanzitutto voglio presentarvi un uomo, una leggenda qui accanto a noi in mezzo ai due ladroni, lo scrittore premio Strega, uno dei più grandi intellettuali italiani, già esagerare con la operaio, già operaio e già tante cose, fiero di esserlo stato, sempre vicino ai proletari, non come te. Però lascia perdere questo, soprattutto uno che un uomo libero che pensa, questo è sicuro, che dice quello che pensa senza problemi, questo lo devo dire, anche se spesso sono in disaccordo con lui, però un uomo libero. Antonio Pennacchi, buonasera. Buonasera, dove sono gli applausi? Applausi per cortesia? Gli applausi finti. Gli applausi, con i grandi ospiti voglio gli applausi. Voglio gli applausi da Milano. Prego, non li mandano. Pennacchi, buonasera. Buonasera. Di più! Pennacchi! Chi vota alle primarie del Partito Democratico, Pennacchi? Voto Bersani. Bravo. Convinto? Certo. Oppure così un po' scalzato? No, convinto. Convinto. E Renzi cosa rappresenta per lei? Subito, colpo di tosse. È ancora da vedere. Ma come da vedere? Può rappresentare anche aspetti positivi, però. La Bindi oggi ha detto che è l'erede dei 20 anni di berlusconismo, è una specie di berluschino. Speriamo di no. Moderatissimo questa sera. Moderatissimo. Sembra di parlare con De Mita stasera. Stasera anziché, un po' anziché Pennacchi, ci sono ospite De Mita Pennacchi. Sentite, io faccio lo scrittore, sono uno scrittore. E che c'entra? Vengo qua invece riuscite sempre a farmi arrabbiare, a dire parolacce. Allora la gente ci ascolta e dice: ma quello è scrittore, ma dice tutte queste parolacce. Ma che è scrittore? Ecco, quindi cercate. E cosa? Cercate di non farmi girare i coglioni. È tornato Pennacchi! Titoli del TG3. Le piace il TG3 della Berlinguer o no? Lo vede il TG3? Guardi, vedo poca televisione. La Berlinguer le piace, pure come donna le piace la signora Berlinguer. Non è male. A me la Berlinguer mi sta simpatica. Ferrara è innamorato della Berlinguer. Giuliano Ferrara è innamoratissimo. E allora questo sarebbe un motivo per sfidarlo a duello e per sparargli. Anche perché Berlinguer. A Ferrara. Ferrara invece non mi sta simpatico. Lo so. Titoli del TG3. Sì. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Raggiunto l'accordo per il cessate il fuoco, ma Israele non toglierà il blocco alla striscia di Gaza. Oltre 20 feriti in un attacco a un autobus a Tel Aviv. Ancora uno stop per gli aiuti alla Grecia, la Germania punta i piedi, poi la Merkel apre Atene a rischio, l'euro napolitano no ad illusioni di autosufficienza. Produttività, Italia ferma al palo da 20 anni, a Palazzo Chigi confronto governo, imprese e sindacati per chiudere un accordo, resta il no della CGIL. Ancora una volta danno fiducia al governo, i malati di SLA e disabili gravissimi, Palazzo Chigi assicura i fondi e loro sospendono lo sciopero della fame. Vertice Berlusconi-Alfano, tra 9 candidature passi indietro, è caos sulle primarie nel PDL e nel partito cresce il timore che la consultazione salti. Bersani, meglio se Monti non entra nella mischia politica e poi una legge elettorale che garantisca governabilità, primarie, Vendola ospite al TG3. Interrogatorio per i componenti della banda che ha sequestrato il ragioniere di Berlusconi, gli interrogativi restano ancora tanti. Vi prego, non ce la faccio più. Veramente alcuni politici, lo possiamo dire, lo posso dire anche con questa voce un po' trans, diciamola tutta. Sì. Hanno la faccia qualche volta come... Pennacchi, mi aiuti? Ci aiuti, hanno la faccia. Dillo tu, io che mi hai chiamato a me per dirlo. Hanno dillo la tu, faccia guarda. Come il culo, bisogna dirlo in maniera chiara. Sentite cosa dice. Il signor Calderoli, quello della porcata. Lei lo conosce, il signor Calderoli, Pennacchi, sì? No. Di vista sa com'è, no? Ah, so qual è. Sa che è stato l'inventore della porcata, no? Porcello. Ci andrebbe mai a pranzo con Calderoli, lei? Mi auguro, guardi, bisogna essere educati con tutti, non bisogna essere maleducati con nessuno. Per cui, però preferirei proprio di no, insomma. Allora, Calderoli oggi in un'intervista a Repubblica dice: Calderoli, è difficile, quasi impossibile, mettere insieme gli interessi di tanti, sta parlando della legge elettorale. Continuano a pensare a casa propria e non al bene del paese. Loro. E non al Senta, bene però, del paese. Aspetti un attimo, però, Grucia. Sì. Lei ha detto che parola ha detto prima: faccia come il culo. Sì. Ecco, sì. Faccia da culo. È scorretto, però, dirglielo solo a no, ma quello vale per tutti. A tutti gli amici sua. Perché è vero che se l'era inventata lui la legge di prima, la chiamava proprio il porcello, la porcata. Ha detto una porcata. Però lei pensi un po', questi. L'altra volta, quando pensavano che vincevano loro, che dopo vincevano loro, allora si sono messi il premio di maggioranza. Basta, sì. Basta prendere il 25% dei voti e poi anche assopiglia tutto, maggioranza assoluta in Parlamento. Mo che invece, quando pensano invece che loro possono perdere, vincono quell'altro, ti è, pigli dall'anto al culo, levo tutto il mio ma non si fa così, ma questa è faccia da culo. Il più faccia da culo di tutti è quello dell'UDC, là, quel casino, ce l'ha votata quella lui. No, perché lui è... Premio strega dice, sempre, no, perché dice, no, la democrazia vuole che tu te devi scegliere le due cose, certo. Quindi vogliono le preferenze, quindi non deve comandare nessuno, tutti sotto a molti. La democrazia vuole questo. La democrazia, noi abbiamo fatto un referendum a sto paese perché voleva l'uninominale, il maggioritario, certo. Questo lui non conta, perché dice no, questo non vale un cazzo, le cose valgono solo quando gli parla lui, come la storia della famiglia, no? Sì. Che lui è per la difesa della famiglia, certo. Eccetera, contro il divorzio, per la difesa della famiglia mia, la tua e la sua. Fuori che è la sua, perché lui c'ha una moglie a Bologna con non so quanti figli, poi l'ha lasciata e se ne è fatta un'altra Roma. Allora tu divorzi e ti separi, fai tutte le mogli che ti pare, poi vieni a rompere i coglioni alla famiglia mia, al matrimonio mio. Ecco, questi sono quelli che ci devono governare. Applausi, signor Bennacchi, questi applausi, sono quelli che ci devono governare. Applausi. Guarda, mandami a casa se no stasera no, condividiamo tutto. Io condivido tutto. Dobbiamo mandargli tutto. Quando devono vincere loro, niente da fare, no, assomiglia tutto. Quando invece posso dice no, stavolta perdo, allora no, non vale niente, si è ricominciato da capo. Un'altra volta con Monti, mandatevene a quel paese, va. Premio strega. Luca da Roma 800 24. No, io lo ripeto, ma stai pia per culo. No. Il grande Pennacchi, le analisi di Pennacchi. Luca da Roma. Eccomi. Sì. Dica. Salve Cruciani, salve. No, io volevo intervenire sulle dichiarazioni della Bindi. Sì, sì. No, oggi poi ci sono state anche le dichiarazioni di Lando, ma mi sembra che tutti si stiano unendo, insomma, contro Renzi. Vabbè, è normale, siamo agli ultimi giorni, la campagna elettorale è normalissimo, no? È una lotta, sì, è una battaglia. Vabbè, la Bindi si sa perché, no? Perché, Gabindi, per si sa perché, Camata... certo, ha il dente avvelenato nei confronti di Renzi, certo. Allora? Ok, ma cosa di berlusconiano Renzi? Ma è sempre la solita storia dell'incontro, lui è andato a Arcore da sindaco di Firenze, eccetera, eccetera. È sempre la solita storia. E poi comunque c'è Giorgio Gori che lavora con lui, che è stato a Mediaset, anche se poi Giorgio Gori ha detto di non aver mai votato per Berlusconi. Insomma, una serie di cose, un modo di fare che qualcuno accosta a una... ha sempre accostato a Berlusconi. Per me non c'entra assolutamente nulla. Per Nugget, che c'è? Posso dire una cosa? Come no? Sì, siamo qui per questo. Per servirla, professore. A parte il fatto che siamo gli ultimi giorni, la primaria, è chiaro che si scalda un po'. Sì. C'è da dire questo però, che le grane le ha cercate lui, Renzi, è Renzi che ha cominciato la bagarre, non è solo gli altri, è Renzi che ha cominciato da subito. Beh, ha fatto una battaglia politica. No, no, che politica, ha fatto una battaglia personalistica, la rottamazione. Perché subito, pigliandosela con D'Alema, col, sì, colpevole di tutto, con D'Alema, con la Bindi. Allora, se io entro qua dentro e dico, ah stronzo, beh, permetti che tu ci avrai pure il diritto di difendere, e quindi... questo legittima difesa, quella della Bindi è legittima difesa. Quella della Bindi si chiama legittima difesa. Diciamo, secondo me lui ha sbagliato, perché poi è ingiusto, no? Perché se uno è bravo, se un dirigente politico è bravo, e io per esempio ho una stima eccelsa dell'intelligenza, della lucidità d'analisi dei D'Alema, sì, se uno è bravo non si capisce perché se ne deve andare e deve pigliare per forza un ragazzino, arriviamo, pure se è deficiente. No, compà. È come uno scrittore, no, Pennacchi, che ha, quanti anni ha Pennacchi? Ecco, di a Renzi che venisse qua da me a dirmi, io sono uno scrittore nuovo, c'è un nuovo libro, molte esatto, lottavamo a te Pennacchi, ma io le butto giù dalla finestra. No, ma come giù dalla finestra? Ma beata te. Però, scusi, detto questo, Pennacchi, ma la rivoluzione non è un pranzo di gala. Senti, tu non mi puoi invitare e poi interrompermi in continuazione. State zitto e fammi parlare. Fallo parlare. Allora, questo è squadrismo. Allora, quello tuo è squadrismo. No, oh, questa cosa, tutte le volte... Senti, non mi rompi i coglioni. Allora? senza che ridi. Che stavo a dire? Allora, sto a dire che... quali sono gli atteggiamenti che hanno preoccupato, che hanno preoccupato me? Sì, sì. Perché io Renzi l'ho accolto anche positivamente, nel senso, invece... sono andato a sentirlo quando è venuto alla Troppo arrogante. Perché secondo me dietro ha alzato tutta una serie di entusiasmi, sì, di voglia del rinnovamento. Anche poi ho visto la gente normale. Che, però... allora, questo mi piaceva. Quello che non mi piace, non mi è piaciuto, è quando lui dice... Sì. Rottamo tutto, allora se vinco io caccio tutto, D'Alema, faccio tutto come pare a me, se invece perdo io me ritorno a... no, questo non mi sta bene, anzi dice se io invece perdo le primarie do una mano da militante, do il mio voto a Bersani e me ne torno a casa. E io gli ho detto, io no, tu non se perdi non devi dare una mano da militante col tuo voto, ma ti devi impegnare con tutte le tue forze, con tutta la gente che rappresenti. No, ti devi impegnare sia a vincere le elezioni sia a far parte anche della coalizione del governo. E quello lo farà. No, perché lui dice io non voglio incarichi. Ah, ecco, cioè. Se vinco faccio tutto io, se perdo me ne vado. Questo è sbagliato. Vabbè. Perché no, fammi finire. No, ma ho capito, no, è sbagliato perché la democrazia, sì, intesa nel senso delle larghe masse popolari che la sinistra deve rappresentare, la democrazia va intesa nel senso del collettivo, de comunitas, non è assopiglia tutto, non è rubamazzo. La politica non è, no, tu non stai a giocare rubamazzo, ho vinto io e faccio come cazzo mi pare. La politica al servizio del proletariato, che è l'altra massa popolare. Ma che mi meni? State zitto, ma che te ne, la gente è tutta quanta come te, vieni qua alla radio da sole 24 ore, ti danno un sacco di soldi. Ma che se il proletariato ci sono milioni di persone in Italia che lavorano a 1.000 euro al mese, ma certo, altri milioni che non lavorano per un cazzo. Ma perché li chiami proletari? Beh, che su, sono ricchi come te. Ma che mi meni? Ma che mi meni? Non è vero, non gliela devi. Non è vero, non gliela diretta. Allora, per le larghe masse proletarie, per il popolo, per le classi subalterne che tu rappresenti, state zitto, fammi finire. Per le, che tu rappresenti, la politica significa tener conto anche degli altri, unire tutte le forze. Allora, Cruciani, state zitto, allora, io ho visto l'altra sera le primarie su Sky, sì, e sì, mi sono piaciute perché ho pensato che quella, chi vince vince, ma se quella sarebbe una stupenda squadra del governo, tutti se poi lavorassero tutti pure insieme, da baci, ma certo, ma pure da baci, ma perché, il governo mica significa che comandi da solo, mica hai fatto la rivoluzione che fanno la dittatura del proletariato, quindi devi tener conto anche dei ceti medi, anche degli imprenditori, pure dei banchieri, come dice Serra, dobbiamo tener conto di tutti, ma per tener conto di tutti ma tenendo al primo posto serra. L'interesse generale del paese, bisogna che state zitto, ma voglio pubblicità, lui deve fare il ticket, ma non è Radio Popolare, se è questa, corretto, se lui è corretto e onesto, lui deve fare il ticket dopo insieme a Bersani, e allora sì che come se centrosinistra stravinciamo. Bravo. E non c'è più bisogno, e a casi via dicevo finalmente ma vaffanculo così. Zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa. Eccoci qui, cari ascoltatori della Zanzara 800240024. Voglio farvi ascoltare il signor Barbato, ve lo ricordate, no? Barbato, Italia dei Valori, che adesso vuole fare, caro Parenzo, insieme a un altro che si chiama Vatinno, credo, il partito dei pirati. Non ne posso sì, più. Sì, ho visto che ha partecipato a questa assemblea. Il partito dei pirati vogliono fare anche loro in uscita dall'Italia dei Valori, anche se non sono formalmente usciti. Anzi, Vatinno, che è il deputato transumanista, te lo ricordi? Sì, come no. Come quello no. Transumanista, una cosa pazzesca. Che vuol dire? Ma non lo so, guardi, Bennacchi. E lei l'intellettuale, noi. Il transumanesimo. Il transumanesimo. Il signor Barbato, che vuole fare insieme a Vatinno, ormai è complicatissimo raccapezzarsi, il partito dei pirati, vogliono creare questa nuova formazione politica. Sentite la Camera cosa dice: hanno ammazzato Di Pietro, ma Di Pietro è vivo, ricordando la canzone di hanno ammazzato Pablo. Pablo è vivo. Signor deputato presidente, hanno ammazzato Di Pietro, ma Di Pietro è vivo. E se è vivo posso ritornare a difendere i 194 lavoratori che sono stati messi fuori dal Carrefour di Casoria. Poi ancora, continua, sentite. Hanno ammazzato Di Pietro, ma Di Pietro è vivo. E se è vivo possiamo continuare a batterci per i lavoratori dell'Alcoa. E poi ancora. Insomma, signor Presidente, hanno ammazzato Di Pietro, ma Di Pietro è vivo. E se vivo Di Pietro. Beh, oggi il suo partito però è meno vivo del solito. Ha perso altri due deputati e ha perso anche un senatore. E lo stesso Di Pietro dice, con un paragone con il cappellano di San Vittore. Sapete quel quello cappellano di San Vittore arrestato per molestie sessuali, per abusi sessuali, e in cambio di piccoli aiuti, di sigarette, qualche cibo, cosa da mangiare, bestiario. Voleva insomma fare delle porcherie con svariati carcerati. Sentite Di Pietro cosa dice. Solo Dio sa cosa faceva. Dunque lui si paragona a Dio, cioè solo Dio riesce a sapere cosa faceva. Io? No. No, Di contrario. Pietro. Contrario. Dice proprio perché non sono Dio. Leggevo il giornale e ho scoperto che il cappellano, il parroco di San Vittore, dopo 15 anni di San Vittore, senza che nessuno se ne accorta, senza che nessuno l'ha potuto capire, pensate che poche settimane fa stavo con il cardinale dell'arcidiocesi di Milano a servire messa. Beh, invece si è scoperto un pedofilo. Non votava i TV. No. Che cosa sto dicendo? Sto dicendo che sapere prima cosa può fare uno dopo, solo Gesù Cristo e il Padre Eterno può saperlo. Non è morto. Beh, che vuol dire? Vuol dire che quando lui che ha scelto delle persone che poi in realtà si sono rivelate dei bluff per Italia dei Valori, hanno cambiato partito oppure hanno rubato, eccetera, eccetera, come si fa a saperlo prima? Questo vuole dire, no? Sì, però è reciproco, cioè pure quelle persone là, quando hanno scelto lui, non sapevano mica che poteva far lui, eccetera. No? Beh, sì, perché, scusatemi, a me non mi è mai piaciuto. Ma Di Pietro? Questo, no, Di Pietro. Perché ho sempre avuto la sensazione che questo pensasse che la legge e che le cose avessero due pesi, cioè che una cosa... C'aveva un peso se la facevano gli altri, se quando invece la faceva lui c'aveva un peso diverso. E Grillo le piace? Tipo, per esempio, fasse prestare la Mercedes da uno e tenerla a mano per due anni. Attento che lì è stato... È stato assolto. Lì Luca Varela, lui è stato assolto dai suoi colleghi, cioè dai giudici, perché non era reato. Secondo me però a me non mi piace. Ma secondo il senso comune del mio, che c'è nel mio barbiere e nel mio bar, è una cosa che non si deve fare. Sì. Perché se lui te vede a te in fotografia con mafioso, e cazzo, allora se è mafioso pure tu. Invece lui lui sta bene. E quindi che so? Ah, dice che lui apre due pesi, due misure. Certo, è il partito suo. Lui dice tutta democrazia, tutto corretto, ma il partito suo. I soldi, il finanziamento va invece alla società dove sono solo loro tre, la vicenda delle case. E quindi secondo me pure quelli, quando hanno scelto a lui, pure quelli mica sapevano com'era lui. E Grillo le piace? Come comico era molto bravo, mi divertiva. Ormai c'è il 20%. Il fenomeno parla, è chiaramente parla alle masse popolari del fenomeno, parla la coda. alla pelle, alla pancia, come si dice, alla gola, il presidente Mao direbbe opportunismo di destra. Il presidente Mao, sì, sì, sì, il presidente non mi cito, ma come il presidente Mao? Ma perché? Senza che, senza che fai tanto lo stronzo così. Nel 2012, Mao, tu, con quelli che devi ancora fa conto. Ma io mi sciacquo, come presidente Mao. Sono loro. Ma che padroni miei? Mao, Lenin, Tung, ma che dici? Questo è stupidino. Ma che non lo sa? Mica lo sa. Ma che dici? Che l'unica fonte, l'unica possibilità di salvezza tua è l'economia cinese. È il comunismo del Stato cinese. Sì. Ah, se tu vai Mao in Umbria, come che c'entra? Ma Lenin, Mao Zedong. Ancora, quelli però hanno l'economia più forte della tua. E che lo sai? Questo, che allora, state zitto, cerca di far lavorare il cervello. Ma sono mica più comunisti quelli. No, sono ricchi più di te. Il partito comunista c'è sta ancora. Costa, ma cerca, sei troppo rigido, c'è ancora delle cose che stanno... Ma c'è tutto modificato, che ne sai come va a finire? I conti sono ancora tutti da fare. Fermo, premesso questo, dove stavamo? Stavamo, il presidente Mao diceva? Grillo. Allora, è chiaro che interpreta bisogni concreti. La gente sta incazzata, c'è il disastro, c'è il dissesto, sì, sì, ci sono masse di disoccupati, non c'è nessuna speranza. I politici. E quindi è chiaro che la gente sta incazzata. Sì. Però un paio di maniche è la protesta, altro paio di maniche è i modelli per poi uscirne fuori. Sì, e quando lui prospetta le cose che ha in mente, fanno ridere i polli. Nel senso che ma tu quando non vieta è... alle persone di andare nei talk show, lei è d'accordo? È una cosa folle, vuol dire che c'è un concetto di democrazia. Bravo. Che non è manco quello di Berlusconi. Cioè, allora, che democrazia è questa in cui l'unico che comanda sei tu? Beh, allora, tu guarda in televisione e tutti gli altri ma vaffanculo, giusto con te, ma c'ha ragione Grillo, ma c'ha ragione Grillo, ma che c'ha ragione, c'ha ragione Grillo, queste sono le mie regole, se tu vuoi partecipare al mio movimento non vai in televisione, non partecipare. Oh, perché la riffa, questa non è democrazia, questa è dittatura. Allora, ma quale dittatura? Ma io te vedo pure a te, te butto alla finestra pure a te, ma vaffanculo. Tu c'è stata la mattina, la sera in televisione, tu l'hai fatta, ma quale io dittatura? Non ci posso andare. Ma che stai dal numero davvero? Questa è la democrazia, ma quello... questo è un paese democratico, cioè vuole il controllo sulle cose, il controllo di tutti. E non può essere che lui è l'unico ente che decide. Allora, proibisce a quelli ai suoi. Proibisce ai suoi. I suoi, e che se l'è comprati al mercato? Ma che ma dalla strada se le compra al mercato dello schiavo, non solo hanno persone che hanno una dignità, poi si sono pure presentati davanti al corpo elettorale. Bravo. Tu sei stato eletto consigliere comunale o regionale solo comunale. Perché c'è Grillo, sei stato nominato da Grillo, tu come sei stato eletto da migliaia di elettori. Bravo. E Grillo poi tu rispondi a Grillo, ma tu sei scemo frutto qua alle elezioni comunali, quelli hanno scritto il nome tuo sulla scheda. Bravo. Capito? L'hanno scritto gli elettori, la massaia, i cittadini incazzati, stupidi, perché se sono fatti fregata Grillo, quello che ti parla a te, ma sono loro che ti hanno eletto e votato. E poi quando tu stai in consiglio comunale non devi tenere la coscienza tua, non devi tenere conto di loro, ma deve contare ma quelli che sarebbero senza Grillo, ma vaffanculo a te, ecco. Sai quello dici tu, è quello che dice tanta gente, che sarebbero noi, polvere senza che Grillo sarebbero, quelli sarebbero polvere, nulla guarda, senza guarda, Grillo fa, per cortesia, questo famoso serio, falla finita, ma che no, falla finita, tutti gli esseri umani sono tutti quelli che chi sei Dio, ma sei un testa di cazzo che incapisce un cazzo. Applausi, con un mondo in cui si va solo in bicicletta e te passa manco per la capoccia, che per fare biciclette ci vogliono, ci vuole l'acciaio, ci vogliono i tifoni, ci vogliono le centrali termiche, e tu vuoi decidere per me, per quello e per tutti quell'altro. Va, senti, che hai fatto i sordi, comprati un'isoletta e il padrone lo va, ma è manco là per andare a fare il padrone, perché comunque ma fa il padrone sugli esseri umani. Considerare gli altri esseri umani come oggetti tuoi è come considerare gli schiavi, ed è contrario ai diritti naturali dell'uomo. Tu sei che ha fatto? Da tribunale, tu sei da tribunale dei diritti dell'uomo. Bravo. Tu sei da essere rinchiuso. Vabbè. E ricoverato all'AIA come i criminali e tutti quelli. Cioè, anche Grillo, allora, anche Grillo se proibisce i suoi di andare in televisione. Basta, sì, ma pure a te che mi stai rompendo i coglioni. Lorenzo dalla provincia di Lodi, buonasera. Facciamo calmare Bennacchi, buonasera, oggi non posso rispondere adeguatamente, purtroppo. Ma vada. Volevo chiedere, ma secondo lei è normale che Berlusconi paga delle ragazze così senza far nulla? In che senso, scusi? L'altro giorno, sia ieri sul Corriere della Sera e sia oggi su altri quotidiani, sono uscite queste varie indiscrezioni che al processo Ruby queste ragazze vengono pagate 2.000-2.500 euro, chi addirittura 10.000 euro per l'onomastico. Sì. Cioè, perché? Le paga continuamente, sì, per le mantiene con uno stipendio fisso di 2005 più vari regali, varie prebende, ma questa è una cosa arcinota, non lo scopriamo certamente adesso. Lei si chiede perché? Perché? Perché? Per mille motivi. Qualcuno dice perché è generoso, altri dicono perché quelle partecipavano alle feste, altri ancora dicono perché ci faceva del sesso, eccetera, eccetera. No, non fa finta di non aver capito la domanda. Lui la domanda te l'ha fatta, precisa, e tu stai girando. Che ha detto? Rispondigli, la domanda te l'ha fatta, l'hai capita, non fa finta di non aver capito. Secondo me, la mia parere, vuole io certo che ho coraggio, vorrei sapere il mio parere, Lorenzo, perché non so se con tutto o con qualcuna, secondo me Berlusconi ha fatto sesso con tutte queste ragazze qua, o comunque partecipavano alle feste, o ha provato a fare sesso, o ma sesso voglio dire, intendo da una cosa minima all'amplesso, diciamo, no? Diciamola tutta. Per cui dopo le mantiene, forse per stare... per generosità, perché ama circondarsi dall'arem, perché stiano zitte, perché non parlino, eccetera, eccetera, a parte che parlano uguale. Voi siete sente Chiedini su affari d'uomo. Allora, Lorenzo? No, niente, volevo solo sapere un po' le vostre idee, insomma. No, Lorenzo, se riconosco, Cruciani la pensa come lei, la pensa. Culo. Cioè, nel senso, io 2500 che gliene frega lei dei soldi che gliene frega a lei dei soldi che Berlusconi dà a queste ragazze? Che gliene frega? Beh, ha ragione. Ognuno spende i suoi soldi come vuole, ognuno spende i suoi soldi come vuole. Aspetta, Cruciani. Sì. O no? A meno che non si faccia con le minorenni, perché poi ma questo è un altro discorso, ma quello e soprattutto lui è padrone di fa questo anche quando era presidente del consiglio, ma basta che poi non mi rompi i coglioni a me, a te o a Davide qua, se poi andiamo a fare sulla 148, non ho capito perché se andiamo a fare cosa sulla 148, perché se tu vai sulla 148 sulla statale e te vengono a puttane, a te te vengono a bastonare, lui invece lo può fare. Ma io sono d'accordo con lei. Diego da Cuneo. Diego, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Niente, volevo a Roma, a Roma le mandano l'ira di Dio, va in giro lui con le moto contro le puttane. Perché non ci ha mandato in giro con la moto a fermare ste ragazze che andavano da Berlusconi? Diego. No, volevo dire una cosa a Pennacchi, che ha detto prima, che tra l'altro è una persona che stimo tantissimo, però che non sono d'accordo con lui quando ha detto che se una persona è brava non è che si possa cacciare così. Cioè, io voglio fare l'esempio, cioè l'anzianità non c'entra, questo voleva dire. Ecco, sì, no, perché anche un Tony Blair è bravo, anche un Barack Obama può essere bravo, però questa gente qua, meno male, Tony Blair adesso non è più in politica, Barack Obama fra 2 anni sappiamo che non ci sarà più, cioè fra 4 anni. Mm. Cioè, questa gente, perché bravo, uno sta lì per sempre, cioè, questa è una cosa tutta italiana. Cioè, No, vabbè, ho capito, però cioè, il concetto era questo, ci sono dei giovani imbecilli e degli anziani intelligenti, questo è il concetto. Senti, ma Di Monti che pensa, Pennacchi? Di Monti. Che a me mi avrebbe già rotto i coglioni. Ma come, lei è stato un sostenitore? Aspetta un momento, un paio di maniche sono le situazioni di emergenza. In cui tu devi tamponare le falle, sì, e devi fare i conti pure col diavolo. E quindi li abbiamo fatti. Siamo stati in una, abbiamo sostenuto Monti in una coalizione, facendo anche i conti col PDL, con le forze di Berlusconi, sapendo però, già allora l'ho detto, che era comunque, che lui era comunque nuovo. Abbiamo chi? Quelli di sinistra? Sì. Sapendo, ma lei non la vogliono, non la vogliono a sinistra, sapendo, non la vogliono, e come mai? Ma perché non la vogliono? Non lo so, perché purtroppo il discorso sta complesso. No, ma perché non la vogliono quelli di sinistra? Perché forse all'interno della sinistra, tra quelli da Rottamare, eccetera, c'è sta pure troppa sinistra chic, radical chic. Che... E lei è così, cioè, lei vuol dire, non è stato mai invitato a nessun tipo di appuntamento in queste primarie? Qualche volta sì, però no, per queste primarie no. Mi sono presentato io un paio di volte. Ma ce la snobbano totalmente. Sì. Ma comunque non c'è è Bersani, questo. Ma anche Bersani la snobba. No, nessuno. Ma comunque non è questo il problema. Ma perché? No, ma perché, per esempio, a me non mi piace che la Melandri da deputato, oggi si smette di fare il deputato e domani diventa presidente del Maxi e nessuno dice niente. Secondo me dovrebbe essere espulsa dal Partito Democratico. Come espulsa? Sì, espulsa. Perché? Ma che ha fatto di male? L'ha come che ha fatto di male? Oh! E che ha fondato? Allora, Rutelli, perché ai tempi suoi ha fatto l'auditorium, il giorno che smette di fare deputato, gli fanno fare il direttore d'orchestra all'auditorium. Ma che cazzo lo dice la capoccia? Oppure la russa, perché ha fatto il ministro delle forze armate, quando va a pensione dice, oh, datemi il comando del reggimento, o gli diamo il comando della porta aerea Garibaldi. Ma che vi dice la capoccia? Allora il ministro della cultura ha fatto pure Bondi. Allora, ma se tu... e avessi fatto fare il presidente del Maxi a Bondi, cioè la sinistra si sarebbe tagliata tutta quanta, si sarebbe incatenata. E invece quella dice, ma che state a scherzare, che mi paragonate a Bondi? Oh, io sono brava, ma vaffanculo, ma che brava sei, non si può fare. In America te cacciavano, su questo c'ha ragione la compagna di prima, quella che diceva sulla rottamazione, eccetera. Ma il problema non è solo l'età. Il problema la compagna. Oh, la fai finita ancora con sti compagni? Ma come parli? Vabbè, la compagna, falla finita. Allora, c'è so forme di sclerosi nella società italiana che colpiscono tutti. Si parla, dei Monti Bis, si parla dei Monti Bis. Io divento pazzo, non ho capito perché. Ho dovuto fare i conti con questo perché c'erano le destre. Motivo per cui, ma mo se vinciamo le elezioni no, non può essere, non se lo fa Montezemolo? Montezemolo? Montezemolo mi sta, come persona mi sta simpatico. Ah, sei andato al convegno di Italia? No, mi piace, giusto, il liberismo, lui fa la concorrenza alle ferrovie, ai treni, con i treni ad alta velocità. Io vorrei sapere da Montezemolo però, ma a Montezemolo ma perché la concorrenza alle ferrovie invece di farla sull'alta velocità non la vieni a fare pure sulla tratta Roma Latina, sui pendolari, sulle tratte dei pendolari lì non gliela fai la concorrenza, la fai solo di spesi un sacco di soldi, la fa qua e dopo ragioniamo, se no vattene a far culo pure tu. Eccola, è un altro. Però, scusi Pennacchi, però mi sta simpatico anche se è juventino, sì. E vabbè, quello che c'è, ma è la Fornero invece? La Fornero che scappa dalle Iene. Ciusi, risentiamo il Ciusi, vi ripeto, sì, no, i giovani non devono essere troppo Ciusi. Non mi fate parlare della Fornero, sì, perché sì, sennò ricomincia un'altra cosa. Non mi dice, ma mia figlia è brava, e tua figlia è brava, sono sbagliati solo i vostri, le figli, la figlia è professoressa all'università. Sì. Cioè, ma che c'entra mia figlia? Ma mia figlia ha vinto è un concorso, ma vaffanculo! Bravo, a tutti i concorsi sempre i figli loro vincono. A Latina ci stanno, non lo so, caso strano, ha vinto il concorso all'Ater, sì. Uno che faceva il consigliere comunale, funzionario dei partiti, cioè, ho vinto il concorso. Ma per voi vincete i concorsi, ma per piacere, su, siamo seri. Qui abbiamo il marito professore universitario, lei professore universitaria, e la figlia pure, è giusto, figlia perché tocca del diritto l'intelligenza solo a quelli che stanno in alto. Scusi Pennacchi, però è giusto o no quando dice allora questa in America frase funziona diverso, però il concorso. C'è solo il sospetto, come dice tuo figlio, perché tuo figlio non può essere, va da un'altra parte, non può essere. Beh, infatti fa un'altra facoltà la figlia, non è che fa economia. Scusi, facciamo sentire Ciusi. Io te voglio dire, senta. E devono trovare un'occupazione. Devono anche non essere troppo choosy, come dicono gli inglesi. Cioè, io lo dicevo sempre ai miei studenti, prenda la prima, poi da dentro lei si guarda intorno. E lo fa, però bisogna entrare nel mercato del lavoro subito. Non pensare che c'è sempre un'offerta. Non bisogna essere troppo schizzinosi, allora, senti, no? Io, ha ragione su questo, no? Ha ragione. Aspetta, io purtroppo conosco solo l'italiano scritto, quello orale, come stai parlando, conosco manco quello, come dicono molti, quindi... Quindi non lo so che vuol dire Ciusi, ma secondo me vuol dire una parolaccia. Allora fammi capire, io non voglio essere Ciusi. Ciusi, no, Pennacchi, scusi. Ciusi, quello che ti parla a te. Però, caso strano, questo lo dici sempre a me, ai figli degli operai, insomma. Perché, nonna. Ma per quanto Ciusi potremmo essere, ma quanti sono? Fatta a vedere, fatte le statistiche dei professori universitari in tutta Italia, quanti vengono, il padre faceva il macellaio, quanti invece questo stava in media borghesia, e quanti professori universitari in Italia il padre faceva l'operaio. Applausi. Tu questo mi devi dire. E allora dopo ragioniamo Ciusi. Se no me lo sbatta le palle sto Ciusi. Si ricorda Pennacchi? Antonio Pennacchi. La canzone com'era, no? Come mai? Se la ricordano? Sempre? D'ora in poi. Ma perché le parolacce me le vuoi fare di tutto? No, perché... dille pure tu. Antonio Pennacchi, grazie. Grazie. La prossima volta vengo al ristorante Impero. Sì, Impero, quello dove mi ha portato una a sera. A Latina. Voglio venire, sì. Quando mi ristabilisco. Quando dove mi mangiò ristabilisco. Mussolini. Sì. Beh, il Duce, quello c'era la Littoria quando veniva il Duce. E quella sera che mi hai portato a mangiare, ti sei mangiato una cofana di roba. Stai zitto, si mangia il miglior fritto di tutta Italia. Sì, ma mi è costato la sassata. I filetti del baccalà, i fiori di zucca. Si è mangiato il mondo, in maniera leggerissima. Si mangia al ristorante Impero a Latina. E chi ha pagato? Non mangia da nessuna parte. Io ho pagato io. Ma che tu? Ma che dici? Ammettilo almeno. Sono come zanzare, queste ombre sulla strada, e cadono le ceneri della città. Facciamo il punto, va, con un po' di voci dalla Zanzara, le vostre voci, quello che vi offriamo ogni sera dal fritto misto della politica, poi gli ascoltatori, partiamo con Grillo, sono un delinquente, non posso fare il premier. Posso dire che questa è una stronzata pazzesca? Cioè, come si fa a sostenere una cosa di questo tipo? Bisogna essere dei talebani. Cioè, solo e semplicemente per quella condanna che non ha nulla a che fare con la politica, con la corruzione, con la concussione, con queste cose qui, un errore di 15 anni fa, non mi ricordo, uno non si può candidare perché è un delinquente. Beh, lo diceva ironicamente, come io ho una condanna per questo, per un incidente, altri invece sono in Parlamento nonostante la condanna. Quindi era chiaramente ironico, perché lui non ha nessuna voglia di fare il parlamentare. Questo è chiaro, quindi usa questa cosa qui come scusa. Io non sono mai mi è passato nella anticamera del cervello di poter di entrare in Parlamento. Lo sappiamo, lo dici sempre. Primo, ma noi ti voteremmo tutti. Primo, sono pieno di carichi pendenti, sono pieno di denunce, veramente, c'ho processi, non potrei neanche. Vabbè, sei coerente. No, io sono un delinquente, cioè, hai capito? Ma io non voglio fare il curatore fallimentare, scusa, io voglio fare il comico. Crozza piglia per il culo Renzi quando protesta perché non è mai in televisione. Crozza Renzi ovunque, anche nei film. A tutti i candidati primari e PD, tutti in TV. Apri i programmi sportivi, c'è Bersani, che due coglioni. Apri il TG, c'è Vendola. Apri il programma di musica, c'è Renzi. E vedo Renzi, dico basta. Guardo film porno. C'è Renzi! Questo che è l'arabo, cos'è l'arabo? Era vestito d'arabo, sì. Rosy Bindi che dice che Renzi si sta consumando. Rottamare. Dunque la parola rottamazione è sbagliata. Bindi. La Berlusconi arrivò in Italia dicendo tutta a casa, la vecchia classe dirigente, tutta corrotta, tutta passata attraverso Tangentopoli, arrivo io, salvo l'Italia. Adesso noi abbiamo una nuova forma di populismo che si presenta ancora all'insegna di questo principio. Nuove sfide si affacciano in televisione. Samorì versus Adinolfi. Sentite, Samorì, candidato alle primarie PDL, se si faranno, perché oggi ancora non è sicuro, con il mitico Adinolfi PD. Sostenitore di Renzi. Come farebbe lui a ridurre il debito? Glielo può fare declinare? Adesso poi Adinolfi ci dice come io ho delle idee, però delle idee praticabili, non c'è la bacchetta magica di quello che fa le favole, insomma. Senza dire nulla, per almeno non ho detto fregnacce, questa è una cosa che proviamo a insultarci reciprocamente, grazie. Lei è una nullità totale, detto in dialetto modenese. Andiamo a Latina. Mario, buonasera Mario. Città di Venezia. Buonasera. Dica. Buonasera. Senta, io ero un assiduo ascoltatore della sua trasmissione. Sì. Addirittura la sentivo anche la sera tardi, la replica. Sì. Sì. Ma da un po' di tempo a questa parte ci ho rinunciato. Infatti si vede la telefonata. Perché? Perché? Oltre alla crisi economica c'è una crisi di costume. Lei è un turpiloquio, si sente nella sua trasmissione pazzesco. Infatti ha fatto bene, ha telefonato anche oggi a conferma che non l'ascolta più. Sì, no, lo stavo ascoltando adesso. Come ho ho sentito un sacco di parolacce da un vostro ospite. No, è un premio strega. Parlare in quel modo, dico. È un intellettuale. Ci sono dei giovani che potrebbero essere educati ad essere più corretti sulla strada, più corretti nel parlare. Esistono. Ma non è questa, è una deriva orribile. Sentire una trasmissione prima condotta in un modo veramente gradevole, perché lei era una persona gradevole. Adesso, oltre al turpiloquio, aggiunge pure una sorta di poco riguardo per chi le telefona. Infatti come vede, ascolta, che non la pensano come lei. Guardi, Mario, io sono totalmente in disaccordo con quello che lei sta dicendo, eppure la sto facendo parlare tranquillamente, magari perché oggi ho un po' di difficoltà nella voce, dunque non la posso azzannare. Però guardi, non c'è nessun problema, lei può dire quello che vuole. Ogni tanto quando ci va cassiamo gli interventi, li interrompiamo, diciamo la nostra. Come nella vita normale, sa nella vita normale come funziona, no? Sì. Sì, è lo stesso, nello stesso modo ci comportiamo qua. Quando uno discute... Però non vi adeguate a chi non è come voi, voglio dire, perché non penso proprio che lei sia al livello di quello che ha fatto parlare prima, insomma. Ma no, è una cosa... Ma... ma ognuno ha il suo modo di parlare, bisogna guardi, rispettare. Non credo. Io per averla sentito per anni, sì, lei è stata sempre una persona corretta e gradevole. Va adesso, bene Mario. Gradevole adesso. Grazie, grazie. Massimiliano da Milano, buonasera. Eccomi qua, dopo una lunga attesa. Ciao Vita. Davide, ci siamo conosciuti oggi in treno, ti ricordi di me? Oh, come no, sono l'assicuratore, sono Massimiliano, certo. Certo, vada, vada, allora, Massimiliano. Io volevo riproporre il mio intervento, poi Cruciani si faccia dire come l'ho salutata da Parenzo, in senso amichevole. Mi ha fermato in treno, stavo mangiando in un ristorante e mi avevo chiacchierato. Prego, dica. Allora, io volevo dire che qui presto si ritorna, non mi mandate la Digos, qui presto si ritornerà a sparare, perché non è possibile che una classe politica intera che ha fallito negli anni scorsi si ripresenti tale e quale alle prossime elezioni. Io spero tanto che Giannino si candidi, che faccia questo partito, che lo faccia, perché altrimenti... Sì, però Giannino non vuole sparare, Massimiliano, no, io lo dico subito. Ma neanche io voglio sparare, il malcontento è tale che la situazione è diventata insostenibile per molti. Io spero che Giannino si candidi, perché io, da ex elettore del PDL, a me dispiacerebbe, turandomi il naso, dover votare Beppe Grillo, perché è vero che Beppe Grillo fa tremare molti di quelli che adesso sono seduti in Parlamento, però non ha un programma organico, e mi piacerebbe che Oscar Giannino si presentasse, perché lui ha un programma organico. Intanto per il momento credo che faccia, insieme ad Oliviero Toscani, che l'ha ideata, una campagna pubblicitaria per la Porsche, da quello che ho letto, poi la cosa deve trovare conferma, una campagna pubblicitaria della Porsche che è ispirata al lusso, alla opposizione alle tasse sul lusso, insomma, una cosa di questo tipo. Le zanzare di casa. Adesso David Parenzo leggerà uno scritto molto, molto anti-sgarbiano. Ma sai che lei è ancora più gradevole con questa voce? Vai, vai, vai. Alla Amanda Lear. Michele Serra scrive oggi su Repubblica. Ieri, in realtà, comunque. Michele Serra scrive ieri su Repubblica. L'urlo di Sgarbi, come l'urlo di Tarzan, è ormai un classico. Lo si può reperire nei suoi periodici aggiornamenti, in quegli sfiziosi colonnini in genere in basso a destra dei quotidiani online, tra l'alligatore che attraversa sulle strisce, il clamoroso autogol del campionato bulgaro, la starlet con le tette fuori controllo, lo scimpanzé pittore, il wurstel più lungo del mondo. Curiosità da cliccare nei momenti d'ozio, sguardo divertito sul bestiario mediatico. Anche Sgarbi, dice Serra, avrebbe bisogno di soccorso e non di essere esibito nei talk show come un fenomeno da circo. Va detto che sono i conduttori, l'ultimo caso riguarda la pur cortese Cristina Parodi, che dovrebbero dare il buon esempio e non lo fanno. Invece di dirgli sicuri, a noi non dispiace vederla così, lei gli ha detto grazie Vittorio, ma grazie di che? E non ci dovrebbe essere sempre un medico in studio forse per portarlo via? Michela Serra vuole il medico in studio per portare via Sgarbi quando sbrocca. Andiamo a Carbonia, Carlo. Carbonia è in provincia latina, che Carbonia? No, Carlo, dica. Dov'è Carbonia? Sì, sì, dunque, prima di tutto un complimenti, perché il suo modo di fare radio si sta espandendo a macchia d'olio anche da voi, perché la trasmissione, tutti convocati, inizia con un entrée proprio di natura cruciana, via, diciamo così. Poi un'altra cosa. Volevo dire, c'è un vero vincitore, già vincitore nelle primarie PD. Sì. E questo è Vendola. Perché? Dunque, intanto io devo dire un fatto. Io premetto che si dice del candidato non eletto trombato, giusto? Sì. Oh. Allora, se Vendola vince, vince. Se non vince, viene trombato e vince anche in quel modo. O mi sbaglio? Beh, Carlo, è brutta questa, vero? Insomma, avete capito voi? La ripeta un attimo, Carlo, la ripeta. Una battuta, cari amici vendoliani, caro Vendola, non si offenda. È una non battuta. Non si deve offendere, assolutamente. Pronti gli applausi? Pronti gli applausi finti? Parta, vada, Carlo, vada. Allora, il candidato non eletto è detto trombato. se Vendola alle primarie vince, ha vinto e non c'è da discutere, ma se perde e viene trombato, in pratica ha vinto lo stesso, perché lui cioè, trova, come dire, godimento in quella situazione, per cui... siamo qui Barbara da Milano, buonasera Barbara. Buonasera Cruciani, innanzitutto in bocca al lupo per domenica, spero che si rimetta e riesca a correre. Bah, vediamo. Speriamo. No, io vorrei fare un appunto su quanto detto a Pennacchi, premetto che l'adoro. Cioè, la bravura di un politico, la sua bravura teorica e l'efficacia pratica sono due cose molto diverse. Cioè, ci sono degli insegnanti di economia all'università e poi ci sono dei manager in azienda che applicano in pratica e magari, non so, riescono a fare le cose teorizzate da altri. C'è un esempio, che ne so, stasera parlate molto della Rosy Bindi. Rosy Bindi, mi pare, io ero all'estero all'epoca, lavoravo all'estero, era nella Margherita, o sbaglio, giusto? La Margherita ha avuto un grave problema di gestione di soldi che non è stato assolutamente possibile controllare a nessun livello di partito. Ora, la Rosy Bindi vorrebbe avere le posizioni di governo, ma sarà in grado poi, quando sarà al governo, di verificare come vengono spesi i soldi? No, veramente non, non dice che vuole responsabilità di governo, Barbara. Dice semplicemente che chiederà la deroga per essere ricandidata, appunto. Sì, però anche in Parlamento, sì, non so, queste persone in Parlamento in teoria dovrebbero gestire i nostri soldi di fatto, no? Una specie di contratto, noi li eleggiamo, allora... E se non sono stati in grado efficacemente, praticamente, di gestire il loro budget, non penso che oggi, forse davanti a questo fallimento, riusciranno a gestire il nostro budget, lei non pensa? Non lo so, è un discorso complesso, lei dice... Non sono stati in grado di finora. Allora dovremmo eliminare, come dire, tutti quelli che sono stati in Parlamento fino adesso, perché tutti quelli che sono stati in Parlamento fino adesso non sono stati capaci di portarci fuori dalle secche. Claudio, provincia di Latina, buonasera. Sì, pronto, buonasera, dottor Cruciani. Dica. Sì, io avrei voluto fare una domanda a Pennacchi, essendo tra l'altro quasi un suo compaesano, avrei voluto farlo impazzire un po'. In particolare è una considerazione la mia adesso, e mi chiedo se lei la condivide. Cioè? In particolare mi chiedevo, gli avversari di Grillo, compreso appunto Pennacchi, contestano la mancanza di democrazia nel Movimento 5 Stelle. Però il problema è che non se lo sono mai posti, non si sono mai posti il problema della democrazia nei partiti italiani per quanto? 50 anni? Ma che mi chiedevo se lei condivide questo problema. Ha ragione. Dice? Ma che per cui avrei voluto farlo impazzire un po', purtroppo non sono riuscito per motivi di tempo. Ma guardi che i partiti della Prima Repubblica facevano delle cose che si chiamano congressi, facevano delle cose che si chiamano tessere. No, ma lui parla del Partito Comunista, parla. Ma che il Partito Comunista faceva i suoi congressi? Ma no, di che stiamo parlando? Il Partito Comunista c'era... Il Partito Comunista italiano? C'era la possibilità di dissenso. Ah, no, diciamo. Ah, non c'erano le correnti, non c'erano gli ingraiani, i cossuttiani, i miglioristi. Ma di chi sta parlando? Non c'era la garanzia della democrazia in senso, nel senso... proprio primo del termine, nel senso, non era possibile per il semplice iscritto far sentire la propria voce se non era appunto aggregato a queste correnti. Cioè, c'era comunque una disciplina molto forte, governata dall'alto, ma centralismo democratico, ma eccetera, eccetera. Dai, su, ma... Ah, non c'erano gli amendoriani, il gli ingraiani? Il problema dell'articolo, se non mi sbaglio, 49 della Costituzione, allora il dottor Parenzo non ne ha sentito mai discutere, voglio dire. Cioè, va bene, comunque secondo me è una critica corretta. Grazie Claudio. Allora, c'è un sondaggio di TGCOM24, Mediaset, che dà addirittura Giorgia Meloni 32%, Alfano 21%, Crosetto 12%, Cattaneo 10%, Santanchè 7%, Samori 5%. Non so se sia un sondaggio fatto da TGCOM24 o un sondaggio riportato da TGCOM24, cioè sul sito di TGCOM24. Beh, comunque, indicativo. Vediamo. Andrea da Bologna, buonasera. Volevo... solamente dire una cosa. Adesso domenica ci sono le primarie del PD, no? Sì. Ma secondo voi cambierà qualcosa chiunque vinca? Cosa vuol dire? Cambia tutto. Già il fatto di aver fatto le primarie ha messo in moto un meccanismo pazzesco anche nel centrodestra. Certo che cambia. Che vuol dire, certo. Andrea, scusi? No, non cambierà niente, ma questo solamente per un motivo. Ora, io studio medicina. Sì. Quando io vado in ospedale, sento i professori, i miei professori, che mi dicono che bisogna risparmiare sulle spese ospedaliere, perché lo Stato non paga, ok? Mm. Quando l'Italia ha 50 ambasciatori più degli Stati Uniti e gli ambasciatori italiani guadagnano più di Angela Merkel. Sì. Allora, io in ospedale bisogna spendere meno, perché questi prendono una barca di quattrini. No, ma lei ha ragione, cioè io sono d'accordo con lei quando dice... Quando dice che in realtà nessuno, non si vedono da parte sicuramente dei candidati, l'ha detto ieri sera Cacciari qui da noi, non si vede da parte dei candidati non si vedono delle proposte concrete per risolvere alcuni nodi fondamentali, giusto? Questo vuole dire? Esatto. Ma Bersani, quando ha fatto il ministro, qualcosa ha dimostrato di saper fare. Le liberalizzazioni per primo, le lenzuolate le ha fatte lui, ma non è vero che è tutto uguale, che non cambia nulla, non è vero? Cosa ha fatto Bersani? Lei ha mai sentito parlare delle liberalizzazioni, del passaggio da una compagnia telefonica ad un'altra? Ha mai sentito parlare del mercato delle assicurazioni liberalizzato, delle famose lenzuolate? Ne ha mai sentito parlare o no? Perché secondo lei Bersani è stato un buon ministro? Secondo me Bersani è stato un ottimo ministro. Ottimo. È stato un ottimo ministro. Ma senza ombra di dubbio. Cioè, quindi ma... lei domenica va a votare votando Bersani. Vabbè, non è un crimine. Cioè, no, non è un crimine. Non vado perché sono a Roma e lavoro a Roma e non sono residente qui. Ma se no ho detto, il signor Cruciani va a Firenze e vota alle primarie il signor Renzi, se non ha cambiato idea. No, non ho cambiato idea. Io avrei votato avrei votato Bersani, ma l'ho detto già un'altra volta, non è uno scandalo. Va bene, qual è il problema, Andrea? Non ho capito. Il problema è che finché non... io sono favorevole a Oscar Giannino. Ma quello c'entra bene. Anch'io sono favorevole a Giannino, che c'entra? C'entra che questi devono andare tutti a casa. Tutti a casa. Non è che possiamo presentare Bersani, D'Alema, Alfano, Berlusconi, questi non... D'Alema non c'è, quanta confusione fa qua. Vabbè, insomma, D'Alema però è a fianco di Bersani, non è che non c'è. Non si candida più. Grazie, Giuseppe dalla provincia di Milano. Sì, buonasera. Dica. Io consiglierei Pennacchi tutte le sere. Magari. Magari, fantastico, mi ha ricordato Alto Gradimento. Comunque il mio discorso era riferito al fatto del Partito Pirata. Cioè? Barbato. Il Partito Pirata c'è in Italia, c'è in Germania, sì. E niente, speriamo di non entrare un moto, insomma, anche perché Grillo potrebbe implodere. Ma sì, ma non ho capito dove vuole andare a parare lei, Giuseppe, non ho capito. No, nel senso che lei ha presentato il Partito Pirata, Barbato vuole stare il Partito Pirata, così, no? Con la scaramuccia. Beh, scusi, se lo vogliono fare Barbato e Vatinno il Partito Pirata, qualche dubbio mi può venire. No, ma non assolutamente loro, il Partito Pirata esiste già. Ma sì, vogliono aderire, vogliono creare, Giuseppe. Ma non è che tutto quello che esiste per forza è intelligente. Il problema è che ha tutta un'organizzazione che in qualsiasi Barbato, in qualsiasi altra persona, in ogni caso, come è strutturato il Partito Pirata, non possono assolutamente prendere in mano una situazione e fare i paladini del Partito Pirata. L'ascoltatore che chiama a favore del Partito Pirata. Bene, grazie. Mino da Frosinone. Sì, buonasera. Dica. Volevo innanzitutto ringraziarla perché con la presenza di Pennacchi, io chiamo qui da Frosinone, quindi Frosinone Latina è vicinissima, ci ha restituito, vi sentivo in macchina, ci ha restituito un momento di bar dello sport, sì, dove le discussioni avvengono anche con espressioni particolarmente colorite, quindi è una cosa che non sentivo da tanto tempo. Detto questo, volevo intervenire anch'io sui sondaggi che a mio avviso non corrispondono al vero, né quelli del PDL né quelli del PD, laddove il Bersani è accreditato di oltre un 40%. Sì. La Meloni dall'altra parte, forse è più credibile quello del PDL sulla Meloni perché credo che sia l'unica tra la rosa naturalmente dei candidati, quella ad avere più carisma obiettivamente, anche se non ha nessun supporto, ma è quella che ha più carisma sicuramente, non certamente Alfano, non certamente le altre, le altre allora... figure. E allora volevo dire obiettivamente, le truppe cammellate accrediteranno sicuramente Bersani, ma sicuramente non è il candidato da preferire. Ma questo chi lo dice che non è il candidato da preferire? Lui. Sì. Vabbè, Mino, grazie. Solo cuore, un'unica idea. La performance di Scilipoti oggi dalla Parodi. Partiamo, l'ordine, le voglio tutte, voglio farvele risentire tutte, tutte quante. Vuoi far sbloccare la gente in macchina? Gli italiani sono un paese, un popolo onesto che si è trovato onesto negli ultimi anni in grande difficoltà. E qui ridono onesto, tutti. Onesto, non tutti. E non gli permetto di ridere, perché chi offende gli italiani e la patria che si chiama Italia offende me, offende i miei figli e offende quello che d'importante abbiamo nel cuore e nel voglio offendere nessuno. Cioè, non permettiamo né a un olandese, né a un inglese, né a un francese di offendere il popolo italiano. No, quello assolutamente sull'utilizzo delle parole. Mettiti anche nel libro che è meglio. Che non offenda gli italiani, basterebbe trasformare la farmaceutica onorevole, industrializzata onorevole, in farmaceutica galenica. Onorevole, 40-100, ha detto 40-100 posti di lavoro? Da 40-100 posti di lavoro per provincia, 100 posti di lavoro per provincia, cara dottoressa. Grazie. Attenta e non si distragga. Non ci siamo distratti. Vuoi fare ancora una domanda tu velocemente? Molto bene, dottoressa. Italia ancora, tu ancora. Ho difeso il governo italiano e lo avrei fatto anche nel caso in cui ci fosse stato a presidente del Consiglio un uomo di sinistra, perché non potevo cedere alle lobby e a una Francia e a una Germania, a un'Inghilterra che volevano distruggere il nostro paese. Veda, il 14 dicembre è stato un giorno importantissimo, ma anche l'11 gennaio del 47 è stato un giorno importante, quando Saragat spaccò il partito socialista e creò le condizioni affinché l'Italia non andasse verso la Russia e un partito comunista che poi abbiamo visto che stava creando le condizioni veramente del disastro italiano. A distanza di 70 anni invece riconosciamo che quella socialdemocrazia e quel Saragat erano delle persone corrette. Io spero che in futuro si potrà dire la stessa cosa di Scilipoti. La cosa che lei ha detto sulla moneta, sulla differenza. Mi dispiace che lei sconosce completamente la storia di questo paese. Mi dispiace che lei non sappia la differenza. E di economia non capisce completamente niente. Scilipoti. Mi dispiace veramente. E sono rammaricato di avere giornalisti come lei in Italia che sono servi del potere delle banche e cercano a tutti i costi di delegittimare coloro i quali cercano di tutelare gli interessi dei lavoratori, gli interessi degli italiani e delle imprese che sono vessati dai suoi amici grazie onorevole. Per un futuro e per chi lo vorrà. Umberto da Palermo, buonasera, avete sentito l'ultima performance di Mimmo Scilipoti? Facendo un po', prendendo lo spunto dall'intervento un po' becero del signore che ha fatto la battuta sul fatto che un certo politico vinca o perda, ha comunque vinto. Sì. Mi riallaccio alla telefonata un po' critica del signor Mario, il quale notava che la trasmissione che tempo a questa parte ha preso un andazzo che lui non piace, di prima non piace neanche a me. Non mi faccio arrabbiare Cruciani, che oggi sta già male. Nulla contro le parole. Non la sento bene, la richiamiamo. Gerardo da Firenze. Buongiorno. Sì, buonasera. Dica. Senta, io torno su un vecchio argomento che avete trattato tante volte, ma lo avete trattato anche questa sera, e mi meraviglia che insultiate ancora Calderoli per il Porcellum, in quanto non è lui l'ideatore del Porcellum. L'ideatore del Porcellum è la sinistra toscana, che lo ha adottato un anno prima che fosse adottata a livello nazionale per le elezioni regionali. Sì, sì, è vero. Questo sì. Porta a due considerazioni. Vabbè, ho capito, ma non è che la sinistra toscana l'ha fatta approvare in Parlamento poi, scusi? No, assolutamente, ma quello che mi meraviglia e che è assolutamente ridicolo è che dopo che per dieci anni la sinistra ha detto giustamente che va tolto in Italia, non lo abbia mai tolto in Toscana, dove lo potrebbe fare dalla mattina alla sera avendo un'assoluta maggioranza. E questo non si giustifica, perché questa è malafede. Lo si vuol tenere dove si comanda e lo si vuol levare dove potrebbero comandare gli altri, essendo uno strumento che avvantaggia chi comanda. Zanza, zanza, zanzare, dietro i vetri in montagna, in collina, in campagna e anche al mare. Zanza, zanza, zanzare, una parola domandina, te più vita in città riesce no a dormire. Zanza, zanza, zanzare. L'ironia di Tremonti di fronte a queste primarie del PDL. Sentite, Tremonti, primarie, non avrai altro angelino al di fuori di Alfano. Le primarie, per come erano messe, potevano interessare, potevano essere una grande discussione, invece per come sono scritte devi, come dire, sono dentro il PDL, PDL su PDL, tu devi, come dire, giurare non avrò altro angelino al di fuori di Alfano, e poi dopo lo stesso Alfano dice che si svincola dal PDL perché ne cambia il simbolo, il nome e quant'altro. Morsicciare tutta un tratto, ricomincia quel rumore. Zanza, zanza, zanzare, pietre, veti, montagna, in collina, in campagna. Domenico da Salerno, buonasera Domenico. Dottor Parenzo, complimenti per la trasmissione. Questo vada, è da Conciani, però, con la voce. Ecco, vado subito. Non lo faccio più parlare, Tremonti, tanto è inutile. Guardi. È lui che il parla, amica. Il mio sogno, sa qual è? Qual è? È far mettere alle nostre campagne qui a Castel San Giorgio tutti questi politici che ci abbiamo qua in esubero, perché ci abbiamo un sacco di terre incolte. E cosa gli farebbe fare, scusi, non ho capito. Zappare, zappare la terra, ma no con il trattore, con la zappa, come si faceva una volta. Addirittura. Ha capito? Vabbè, mi pare proprio una rivoluzione, una roba nuova, ha detto, proprio una riflessione nuova ha fatto, bravo, bravo. Questa tutti a zappare. Trovata. Qui al nostro paese ci sono un sacco di persone che la ascoltano. No, ecco. Ho capito, ma io commento quello che lei ha detto, c'è una novità assoluta. Una novità assoluta. Li manderei tutti a zappare, perfetto, benissimo. Sì, tutti a zappare, però con la cosa che la zappa bisogna saperla manovrare. Con le mani? Perché non li fa zappare direttamente con le mani anziché No, ci vuole sempre la zappa, lo strumento è sempre quello indispensabile. Volevo dirle comunque, complimenti, mi sembra che l'ho detto già. Sì, mi scusi avanti. Dell'emozione perché è un po' di tempo che cercavo di Domenico, di su, siamo avanti, che ve lo fa innervosire ancora di più, signor Cruciani, che già oggi sta malissimo con questa voce cavernicola. Una pronta guarigione. Ecco, gliela mandata. Grazie, Luca da Rimini, buonasera. Sta facendo le corna, arrivederci. Luca? Buonasera Cruciani, buonasera. Dica. Parenzo. Dichi, Luca? No. Dica. No? Dichi. Volevo parlare dell'austerity, un po' di Tremonti. No, l'austerity. Volevo solo dire, mi sono preso due appunti, solo così. Allora, vaghe idee confuse, prego. No, confuse. Allora, l'austerity va bene, ci sta. Diamo il merito a Monti che un po' ci ha portato, diciamo, fuori dagli scogli, diciamo. Diamogli pure questo merito. Boh. Però se vogliamo essere un pochino equi, non dico proprio proni, però equi, allora un'assicurazione in Francia costa la metà che in Italia. Un passaggio in Francia costa quasi la metà che in Italia. Le paghe in Francia sono... Ma quindi non capisco a cosa vuole arrivare, scusi. A cosa vuole arrivare? Mica la capisco. Voglio arrivare al fatto che... Allora, siamo d'accordo di portare avanti questa austerity, però voglio dire, quando è ora di portare avanti l'austerity dobbiamo essere europei. quando è ora di adeguarci all'Europa, però allora l'assicurazione... Ma infatti l'abbiamo detto in questa trasmissione mille volte, abbiamo detto mille volte che ci volevano tagli sulla spesa pubblica, l'abbiamo ripetuto, detto e ridetto 50.000 volte, su! Su. Certo, sono d'accordo. Volevo dire anche un'altra cosa, che anche per il fatto... rapido, che il Cruciani suda e perde voce, ogni cosa che lei dice, austerity, leggi, cose, me lo ammazza, avanti! Ma che ride, sta male, e questo ride, il cinismo della puttana. Vada avanti, rapido, veloce. Sta male per quello che sente. Insomma, non si può sempre essere europei solo quanto fa comodo. Dobbiamo anche venire incontro alle minime esigenze di vita, diciamo. Boh, minime esigenze di vita. Vabbè, Luca, minime esigenze abbiamo di con vita. Noi un altro dei candidati alle primarie del PDL, l'ultimo forse, l'undicesimo apostolo. Undicesimo, non lo sappiamo, Luciano Sirighini Garagnani, buonasera. Luciano, sei risvegliato. Buonasera, Luciano. Ma io pensate che, pur sì. essendo sconosciuto, non sono l'ultimo, ma sono stato il primo. Sì. In che senso? Ah, il primo a candidarsi? Già, pensa proprio. Però non se ne è accorto nessuno. Ecco, non se ne è accorto nessuno. Tenga presente questo, diciamo. E questa è la cosa brutta, infatti. Se ne sono accorti pochissimi per colpa di una forma di ostracismo che io attribuisco al partito. Però pensate che io sono stato proprio il primo che ha presentato la proposta di candidatura e addirittura il primo perché ha presentato le firme. Scusi, qualcuno la accosta al nome di Nicole Minetti. Come mai? Perché? Lei è amica della sua politica, purtroppo è molto legata al gossip e questa è una notizia succulenta perché che lei fa dei contenuti attira questa che rapporto aveva o ha imputato Sirighini scherzo, sembrava di fare la bocca seria, ma che rapporto ha lei con la signora Minetti? Nicole, siamo amici, io mi occupo di televisione. Ma avete avuto anche una relazione? Ma perché? Ma che ti importa? Ma che ti importa? Non era una casa di vetro. Ma siamo questa. amici. Ma c'è stata una paccata o no? Come dico da Roma, avete fatto una paccata? Ma si può dire che male, ci sono le 8:40, 20:40, la gente in macchina, sto andando a casa. Lei, candidato alle primarie del PDL, ha mai paccato con la signora Minetti? Ha mai paccato la signora Minetti? A Roma si dice paccato. No, mai. Sono amici. Il rapporto con Nicole è un rapporto nato... diventato di amicizia, nato per lavoro, perché ci siamo conosciuti durante un provino e io sono quello che ha avuto il merito o il demerito, a seconda dei punti di vista, di aver portato Nicole in televisione. Ah, è lei quindi quello che l'ha... che la portata. Scusi, ma giornali si raccontava che è stato Berlusconi, ma in realtà... ma quello lo fa bene, infatti, in televisione fa ma bene. È vero che lei ha una discendenza... nobile. No, leggo qua sul fatto di oggi. Mio nonno era nobile, sì. Era un marchese. Quindi lei cos'è adesso? Niente, la monarchia, la nobiltà è ricaduta in Italia, siamo in Repubblica. No, ma se lei è un marchese... Scusi, ma noi, nella vita lei che fa? Io mi occupo di produzione televisiva. Ma perché diavolo si candida alle primarie del PDL, scusi? Perché ho sempre fatto politica, da quando è nata Ho capito, ma uno si candida alle primarie del PDL perché pensa di vincere, di diventare Presidente del Consiglio. Lei non vorrà mica diventare Presidente del Consiglio, caro Sirighini Garagnani, o no? Ma guardi, la mia candidatura nasce proprio come risposta all'appello lanciato da Silvio Berlusconi. Berlusconi ha detto che bisogna creare forze nuove, forze giovani, che riprendano lo spirito del 94. Io politicamente sono nato nel 94, in quanto poi la prima volta che ho votato a 18 anni nel 94, ed ero uno dei primi che ha mosso quella ventata popolare che Berlusconi aveva trascinato. Ti ho capito, ma Minichini, no, Sirighini. E quindi siamo arrivati. Ma non la conosce nessuno, cioè voglio dire, lei dice, sono il primo che l'ha presentata e nessuno purtroppo per lei se n'è accorto. Fa un altro mestiere, dice, ho sempre fatto politica, ma in verità fino ad oggi, francamente, e le chiedo anche scusa, nessuno, il sottoscritto per primo, sapeva della sua esistenza, ma qualora noi facessimo un grande sondaggio popolare alla Zanzara, credo che questa sia opinione diffusa. Di che parliamo? Scusi, però lei ha raccolto appunto di forze giovani nuove, pronte, visto che avete parlato fino adesso che bisogna fare un cambiamento. Lei quanti anni ha? Quanti anni ha, Sirighini? 36. Per lei Berlusconi che cos'è? Mi dia una definizione rapida. Berlusconi per lei chi è? Cosa rappresenta? È il presidente del partito nel quale io milito. È stata la figura che è riuscita a dare un po' di stimolo agli italiani quando non avevano più nella politica nel 94. Attualmente servirebbe che uscisse un nuovo Berlusconi con lo stesso spirito. Dunque lei si sente un nuovo Berlusconi? Si sente un nuovo Berlusconi. È l'unico modo per poterlo. No, no, assolutamente. Beh, lei no. Si candida a essere, dice, ma scusi, se lei si candida alle primarie e dice sì. Sarebbe opportuno che uscisse un nuovo Berlusconi, è chiaro che lei, essendo uno dei magnifici 11, si carica ad essere, si, come dire, prova a essere uno dei nuovi Berlusconi. No? Ma l'idea, guardi, io penso che l'idea che abbiamo tutti quanti è quella di poter diventare dei politici di riferimento per il popolo italiano, per avere la possibilità sì. Di fare del bene per il popolo italiano. Ovviamente bisogna iniziare, bisogna incominciare. Ma la Minetti l'appoggia in questa... A dare dei progetti e sì. Dei programmi. La Minetti l'appoggia in questa avventura? No, la Minetti viaggia per i fatti suoi. Ma ormai... voterà per lei alle primarie? Per chi va alla primarie? Magari non vota nemmeno. Per la Minetti va a votare alle primarie, secondo lei? Ma lei è anche amico di... Lei è anche amico di Fiore di Forza Nuova, sbaglio? No. Roberto Fiore è venuto a una manifestazione che ho organizzato io. Sì. Complimenti, si c'era moderato il signor Fiore di Forza Nuova, un, no, guarda, un vero liberale. Ho invitato tutti i partiti e tra i vari partiti è l'unico che ha risposto è Fiore. Assolutamente no, erano presenti quelli del PDL, quelli della Lega Nord, quelli di alcune liste civiche genovesi, visto che stiamo parlando di un evento che è stato fatto a Genova. Scusi, ma queste primarie alla fine si fanno o non si fanno? Stiamo aspettando. Io penso di sì, contando che noi stamattina abbiamo depositato le 10.327 firme richieste, sarebbe inopportuno magari non farle. Visto che se ma da chi dipende? Chi è che deve decidere? Berlusconi alla fine? Il comitato di presidenza del partito. No, Parenzo, ti prego, leggi l'inizio di questa intervista a uno dei candidati che si è appena ritirato dalla corsa alla segreteria del PDL. L'intervista va dal signor Malcolm Pagani oggi su Il Fatto Quotidiano ed è fatta dal signor Alfonso Luigi Marra. I radioascoltatori della Zanzara lo ricorderanno sicuramente, il signore che ha avuto anche una liaison con la nostra amica e conoscente Sara Tommasi. Sara Tommasi. Dice Malcolm Pagani: Monti è un No, non è che lo dice Malcolm Pagani, è lui che parla. Tu. Malcolm Pagani, intervistando Marra, scrive: dice Monti è un delinquente. Alfano è un baro. Mi dia una settimana per le firme. Monti è un delinquente e sarà processato insieme agli altri membri del gruppo Bilderberg, un'organizzazione occulta vietata dall'articolo 1 della legge Anselmi. Devo non ridere, scusate. È sempre Marra che parla. Il Bilderberg non è la miserabile P3 o la ridicola P4, ma un blocco di potere economico che orienta i mercati finanziari e la politica internazionale. Quando si accerterà che Monti ha lavorato al solo scopo di apportare benefici al sistema bancario, al sistema drogato delle carte di credito, sarà troppo tardi. E prosegue Alfonso Marra: per l'Italia e per queste primarie del PDL, a cui eccezioni procedurali, limitazioni territoriali e fumosi cavilli allo Stato mi impediscono di partecipare. Marra. Poi mi punge pure in faccia, sotto i piedi, tra le dita, e comincia la partita. Allora, intanto stallo nel PDL. Marra. Domani rinviata la scelta sulle primarie. Al vertice tensione molto alta tra Alfano e Berlusconi. Lei con chi sta, Sirigini Garagnani? Ma non è una partita su nella quale bisogna tifare per qualcuno. E beh, non insomma. È che sono uno contro l'altro assolutamente. Beh, come no? Si sta cercando di arrivare a una soluzione, perché ovviamente l'idea delle primarie è nata nel pensiero di Silvio Berlusconi, che ha sempre voluto un partito. Ma qual è l'ostacolo? Oggi, scusi, perché manca un po' che io veramente non l'ostacolo capisco. È proprio un errore, vede, il discorso delle primarie, che è stato fatto un errore puramente tecnico. Berlusconi è una persona che è spinto molto dalla sua passione, dall'insultarla. Ha lanciato un'idea ottima, perfetta, buona. Peccato che bisogna attuare le primarie nel contesto di un partito organizzato a livello territoriale. Fare primarie così come sono state lanciate inevitabilmente favorisce unicamente una persona che è il segretario. Okay, ma lei allora perché si candida, Garagnani, scusi? Perché io sto cercando di portare una lotta all'interno del partito per far sì che il partito si possa radicalizzare sul territorio. Queste primarie così organizzate in questa maniera. Quindi lei sta con Berlusconi? Lei sta con Berlusconi? Nello scontro Alfano-Berlusconi lei sta con Berlusconi o no? Ma non c'è nessuno scontro, guarda, tra Berlusconi e Alfano, assolutamente. Io ma lei dicono sia vicino al ministro? Della nostra candidatura, sì. Della mia candidatura, è unicamente per dimostrare che una base nel partito, ma c'è, una base chiede un cambiamento, perché noi siamo riusciti a portare 10.327. Ma è vero che lei è vicino all'ex ministro? È vero che lei è vicino all'ex? In maniera per fare convegni, eccetera. Unicamente con la forza popolare che ha fatto nascere Forza Italia nel 94. Quindi vuol dire che una base c'è. e spero che il presidente Berlusconi se ne accorga. Scusi, Sirichini Garagnani, lei è vero che lei è vicino alle posizioni dell'ex ministro Brambilla? Io sono un promotore della libertà, il ministro Brambilla è il presidente del promotore della libertà. Ma perché esistono ancora i promotori della libertà? Chi sono i promotori? Scusi. Esistono e sono anche molto attivi. Ma scusi l'ignoranza, chi sono i promotori della libertà? Perché ho perso un passaggio. Era uno dei club creati da Berlusconi. È un gruppo promotori. È un gruppo interno, un gruppo politico all'interno del PD, promotori della libertà. Va bene, grazie, grazie. Buona serata, Sirichini. Sandro da Teramo, buonasera, Sandro. Buonasera, volevo fare una domanda al signor Parenzo. Dica. Volevo chiedere se le primarie, volevo parlare delle primarie del PD, in particolare di Matteo Renzi. Tutti i sondaggi danno Matteo Renzi quale eventuale candidato alla presidenza del Consiglio come vincitore assoluto con una grandissima percentuale. Ma chi lo dice? Sono un elettore del PD. Perché dovremmo rinunciare a questa grossa a questa vittoria? La vittoria è sicura, ma con Renzi si stravincerebbe. E in questo momento sarebbe cioè lei dice si stravincerebbe con Renzi se Renzi fosse il candidato alla presidenza del Consiglio. Certo. Questo lei dice. Con Bersani si arriverebbe a un 30% che rimetterebbe tutto in discussione. Ma che argomento è? Cioè adesso sono le primarie del centro-sinistra. Gli elettori del centro-sinistra verseranno 2 euro, andranno a votare e decideranno chi dovrà affrontare la sfida della premiership, cioè chi dovrà sfidare il candidato avversario. Questo è, non con Renzi si vince di più. Ma con quello si sottovalutano i sondaggi? Cioè anche lo stesso Bersani avrebbe potuto... Sondaggi di chi? Anche... Ma insomma qui è il popolo di centro-sinistra che deve votare e chi si riconosce nei magnifici 5, no? E quindi sono loro che decideranno chi deve fare, non in base al fatto che Renzi potrebbe vincere in caso fosse. Ma che discorso è? Qui ci sono le primarie e si vota le primarie. Ho capito, però le primarie... Lei per chi lei voterà per Renzi, giusto? Voterò per Renzi. E allora voti per Renzi, se gli piace così voti per Renzi, evviva, avanti. Però voglio dire, ma è una valutazione che va fatta anche, cioè, con i sondaggi, cioè siamo... Anche perché Bersani rimarrebbe comunque sondaggio, dai. Arrivederci, grazie Sandro. Matteo da Bergamo, Bergamo. Sì, salve, mi sentite? Sì, forte e chiaro, avanti. Sì, ecco. No, volevo fare una domanda al signor Parenzo, dottor Parenzo, che prima aveva parlato di un argomento interessante, quello della moneta. Mi preoccupo. Quale moneta? Visto che tutte quelle affermazioni fatte da Marra logicamente vengono ridicolizzate. Alfonso Luigi Marra, sì. Ecco, vengono ridicolizzate come delle uscite da cospiratori. Ma scusi, chiedere al signor Matteo, Parenzo, scusi. A voi e anche tutti i radioascoltatori, di rispondere a una semplice domanda. Se, secondo voi il denaro, no, il che denaro. Siamo tutti schiavi in questo 20 momento 52. Del denaro. Schiavi del denaro, ecco, 20 e 52. La proprietà del denaro al momento dell'emissione. 20 e 52, sì, avanti. Ecco, secondo voi di chi è? Ecco, di chi, di questi qui, c'è cioè il dico no, io di chi per è? Per rispondere basta che lei prenda una moneta da 50. No, basta che lei prenda un'ambulanza, guardi. Basta che lei prenda un'ambulanza, altro che moneta, perché un signore come Marra mi viene da ridere che a Malcolm Pagani dice che Monti è un delinquente, sarà processato insieme agli altri membri del gruppo Bilderberg, processato per la legge Anselmi. Dai, su, avanti. La proprietà del denaro di chi è, visto sì, che le di banche... chi ancora non l'hanno ancora presa. Rimanga lì, dov'è lei? Mi sente? Lorenzo da Brescia, ultimi 40 secondi, credo. Cioè, come sta lei? Male. Ma domani la rivediamo viva o no? Buonasera. Non è vivo? Ho dei dubbi. Appello alla al morbo che affligge Cruciani. Lascialo vivere. No, è l'ambulanza per Cruciani questa. È una meraviglia. Regia, chiudiamo così oggi. Ci sentiamo domani. Chiudiamo così. Cruciani, Piazza Indipendenza, subito, veloci, Roma. La politica, tu non stai a giocare rubamazzo, ho vinto io e faccio come cazzo mi pare. La politica al servizio del proletariato, è l'arte massima popolare. Ma che la gente è tutta quanta come te, vieni qua alla radio, da sole 24 ore ti danno un sacco di soldi. Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Mandatevene a quel paese, va. Radio 24. La passione si sente.